fiamme di sole, nel mare, fiamme di caldo. E meno male abbiamo fatto quelle ore lì. Chissà che è stato dopo le 11:30. Cosa abbiamo detto di sole? Io ho fatto dalle 8:15, sono arrivato sino alle 11:30, poi mi sono andato. Le ore migliori, dai. Io positivo. E quello sto bene o male, mi sono a quest'ora, al piacere alle 5, sino alle 7:30, 8, così. Chiava, c'era Luca, ti ho detto passa al 14, però l'ho perso. Gigi sta rientrando subito, è salito un attimino, sceso un attimino al garage. Al garage? Stavamo provando la radio Melegatto. Speriamo che lunedì metta qualche radio più interessante. Dove mai un cacchio questi B? La mia dovrebbe arrivare, mi ha detto Fabrizio, ho preso una radio americana, un'altra bella, 40 canali più 40, molto bella base, un tank warbo, una cosa del genere. Dovrebbe arrivare la prossima settimana, residuo di magazzino, è nuovo dentro la scatola, proprio, non so se dall'Inghilterra, una cosa del genere. Se ne sta occupando Fabrizio. Ma non è una base? Yes, sì, guarda, è quasi gemella del Galaxy, una cosa del genere, con le maniglie, però è una radio americana, ed è tutta in legno, col coso, col frontale davanti, cromato, capito? Però la cassa è tutta in legno, nuova, dentro la scatola, residui di magazzino, non lo so, Fabrizio mi ha chiamato ieri, mi ha detto che me l'ha trovata, che l'ha ordinata e dovrebbe arrivare, credo, la prossima settimana, non lo so, una decina di giorni mi ha detto, perché c'è lo sdoganamento. Bella, bella, bella. Ehi, ehi, ehi. Non so, guarda, neanche, mi ha detto il nome, ma non me l'ho scritto e non me l'ammetto. Lo sa lui, però io, Fabrizio, già mi fido, non c'è problema. È un base, mi ha detto che è grande quanto è il Galaxy, così grande, bella, però c'è che essere in ferro e in legno, c'è tutta la cassa in legno e il frontale in cromato, è cromato in alluminio, tipo il Dacia, ma come il frontale tipo il Dacia, con le maniglie così, capite? Il Dacia, il Colt Escalibur. Il Colt Escalibur era bello, però non c'aveva frequenzimetro. No, non è il Colt Escalibur, è proprio una radio americana, 40 canali, non c'ha l'FM, hai capito, quindi americana. 40 canali con le bande laterali, più 40 canali sopra. Quindi quello che mi interessa è perché 40 più 40 c'è solo questo, non è 48, almeno... Posso usare anche quello col Turner, intanto c'ha gli attacchi a 4, o il Turner più 2, o il Turner più 3, ma c'ho l'M500, l'M600, un microfono già glielo attacchiamo, non c'è problema. Ma basta, ma poi non prendo altri baracchi così, dai. Non prendo altri, io va bene. Tanto HF mio non mi interessa, però baracchino ne volevo un altro base più completo, perché quelli che ho, a parte il Ruiz che è 40 canali, gli altri sono tutti 23 canali, capito? Vabbè, l'MS200 è lo stesso, c'è un po' di canali, non c'è problema, e te lo segna pure, non problema. Anche il 45 segna lì, il Sears 23 canali, l'HB23, questo è, vabbè, questo è 40 più 40 lo stesso, il Zodiac è 23 e quello di Mario Mao è 23, e adesso vediamo com'è, poi te lo faccio vedere, ancora con il canto. E stamattina mi sono alzato presto per preparare tutto, eccetera, eccetera. Quindi no. Poi non ho dormito bene stanotte, sempre con questo dolore di stomaco, sicuramente di nuovo quel cazzo di virus mi ha crepato, avevo questa bruciola, questo cazzo, ho detto vabbè, avevamo la sigaretta, se lì saravamo lui subito, non avevo più sofferto di bruciole da parecchio tempo e me lo sono portato al mare, pure. Mi ho preso anche un Marox stanotte. Ah, non lo so, portato anche al mare questa bruciola. No, no, è la sigaretta già. Magari c'è un po' di colite, perché anche Anna glielo fa, capito? Ogni tanto le vengono queste bruciole allo stomaco e a volte anche a cagarella. Ed è sicuramente la qualche punta di colite che lo fa, perché ho fatto la cura e no, non mi è più venuto. Non è assolutamente la sigaretta, manco per 5 però. L'hai visto che è morto il produttore del sistema infarto ieri? No. Settimio Falchi, è un parente di mia madre, lavorava all'ASI, collega di mio fratello, un infarto, è andato a fare adesso pericoloso, doveva fare una lastra, una cosa all'ospedale, gli è venuto un infarto all'ospedale e non ci hanno fatto recuperarlo, tanto immaginaci. Quando è così? No, non lo conosco, se mi dici magari dove stava o qualcosa, no. Settimio, le conosco una sola donna. Settimio, maschio no? Mia Settimia, una la conosco, mi fa sentire, ma maschio no. Guarda, abitava lì dove c'è praticamente il trifoglio, capito, quella strada lì, quella che poi incrocia con via Balai, o con lungomare Balai, lì abitava. E la moglie è quella piccoletta che lavorava da mura, ferramenta mura, te lo ricordi ferramenta mura a San Gavino? La moglie è quella piccoletta che lavorava dietro il banco. La ferramenta mura ci lavorano i figli, tutti e due, chi su Giorgio, dopo, che è un antipatico che non ci vede il padrone, là. Ma no, di questa donna non me ne ricordo, e lavora anche un ragazzo nuovo adesso. No, non lavora più Speranza, è andata in pensione. Lei ha iniziato a lavorare, la moglie di questo qui ha iniziato a lavorare con il signor Angelina, te la metti a signor Angelina, adesso mi dia le botti. Dove c'è il negozio in piazza di 5 luglio? Dove c'era, là? Sì. Ah, è positivo. Ha lavorato, ha iniziato a lavorare lì, come commessa. Poi quando c'era Gina ha chiuso tutto, lì è andata a lavorare con Mura, ferramenta Mura, e da lì è andata in pensione. Brava gente, cazzo, non solo meritava Settimio, era un 6-7 anni già in pensione. Neanche cazzo, tu dici, altre pensioni a 65 anni, ne faceva 69, quasi 4 anni, quasi 4 anni pensione, 5 anni pensione quasi, da 68 ne aveva, capito? Adio. Ehi, Gigi Luca, ma lei di Angelina era del Battianino, la moglie di Battianino è la figlia di Battianino, mio cognato. Io lo so, che se un Battianino abbiamo fatto il militare, già lo so. E come che lo so, già lo so, infatti allora si mancavano mai i botti, poi i giabatti, sempre Battianino te la regava. Positiva, qua te la metti che se le travagliava un cattolaggio che travagliava in un negozio, te la metti. Ehi, ma sono Gerolamo, se me lo ricordo. Gerolamo, sarà molto pure visto, pure da un mezzo. Lo so, no, ma è morto Settimio, capito, Settimio Falchi, è un parente di mamma. Ed è il marito di Speranza, quella che lavorava, quella piccoletta che lavorava la signora Angelina. niente. Adesso è leggiuto un infarto, è fulminante, è morto sul colpo, in ospedale è morto anche. Positivo, non lo conoscevo anche a lui, a settimana lo conoscevo, ma di travagliare, era all'Aseri, mi sembrava lì all'Aseri, sì, la porta lì all'Aseri. E il collega di mio fratello, stavo dicendo, c'è anni all'Aseri, allora, è andato in pensione 4-5 anni fa, c'era la lettera del fratello di mamma, 68 anni. Ma se lo vedevi un grillo, sembrava un uomo di 55-60 anni, sempre a zilo, sempre in giro, con la moglie, belle passeggiate in piazza, e doveva andare anche fuori, adesso all'estero, non so per fare che cosa, facevo una gita, vedo che anche benestante, c'è un paio di case affittate, poi pensionato all'Asi, la moglie lo stesso pensionata, capito? Ma invece ci ha rimesso tutto, che come la vita, ui, vai doppio root. K. E magari lo conosco anche, se lo vedo lo conosco, probabilmente lo conosco sicuramente, perché io produttore se la gira tutto e per tutto, però quella zona lì, a meno che venisse via male, quella zona lì, non è che la conosco più di tanto, via le Trieste, sì, via le Trieste, quella zona lì, o Clinti, ma di lì dove sei tutti, Trifoglio, in quella via lì non conosco quasi nessuno. Ah, se non c'era che abitava Dio il collega, quello che lavorava in carovana lì, praticamente dove c'è l'ufficio della cosa, la compagnia portuale, dove c'è quel ristorante, vabbè, Bodale, lì, dove c'è Bodale, attaccata a Bodale con la palazzina nuova, l'aveva comprata lui, tutta restaurata, abitava lì, capito? C'è la fotografia, capito? E tu già lo conoscevi, Gigi, perché l'hai visto un sacco di volte lì. Poi lui e mio fratello quando la gira lì a dove vai a Orgoglio, dove c'è la Tirreni adesso, lì loro c'erano gli uffici e lui proprio e mio fratello si occupavano lì dello scarico e carico. Quindi sicuramente l'hai conosciuto bene. Sicuramente sì, anche a tuo fratello io se lo vedo lo conosco perché io lì ci andavo per lavoro e per cosa, capito? Poi c'era Gianni, lì c'è stato Gianni De Sì, il cugino di Marzianino, non so se lo sai, se l'hai presente, che la maggior parte sono tutti in comune, quelli lì comunque Gianni De Sì è stato, era lì al Moro Asi, lui era come una specie di direttore lì. No, era direttore Gianni. Era direttore, poi c'è stato presidente, c'è stato Eugenio Corso, vabbè tutto il primo presidente è stato mio zio, Nicola Francesco, poi c'è stato mi pare Eugenio Corso, dopo di Annibale, e poi mi pare vabbè, vicepresidente c'è Enrico, adesso il presidente è Franco Borghetto, comunque già sono vai. Non c'è problema, già lo conosco. Beh, Antonello cazzo non lo conosce mio fratello, è uguale a me, un po' più alto, un po' più rossetto, ma c'è i capelli bianchi e la barba un pochino bianca, dai. La barbettina bianca, ma è uguale a me, comunque non c'è problema. Positivo, positivo. No, già sicuramente lo conosco. Lo conosco sicuramente. E un po' più alto di me e basta, più o meno è brutto, non so, sarà se l'uno è 78, 1,80 non ci arriva. Chiavagliava, è meno più brutto, allora non esci? No, dopo caldo, c'è. Ma questo è Francesco di Scarpin, li conosci? Cosa? Questi Francesco di Scarpin, li conosci? Francescone e Scarpina. E Francescone di produttore sono tutti i miei parenti. Sono tutti i miei parenti, capito? mio mondo, che onore forte. Quindi sono tutte frutti del cielo di mamma. Questa scarpino però, ma cos'è, la moglie di uno dei Francesconi? Via. Cosa stavo dicendo? Ma Falchi, ha detto il mio stato di questo Falchi? Non ho capito già, cosa hai detto? Ho detto quelli dei sacchi di che fatti. Falchi tu. Capita. Falchi, si chiamano i fascisti. Allora, tutti i fascisti sono mio parente, morto tosto di cielo. Tutti i falchi sono tutti parenti di mamma. Questo è morto Settimio, praticamente il padre, quindi mio nonno, era fratello. Cazzo, troppo scioglie. Il padre di Settimio, dai, è fratello del padre di mamma, capito? Ah, di tuo zio, praticamente. Ah, no. Io positivo. Anche Mario Falchi, pugile, quello è morto, tutta quella generazione lì. Tutti i frati Marocco si chiamano, Gianni Doppio Rotto, frati Marocco, capito? Quelli sono tutti i parenti di mamma, gatta. Mario io lo conoscevo, quello che mi stava accantando in Russia. Ah, io lo sentivo. Ma era grande Mario, poi anche lui si è lasciato andare per una delusione. Se dal diabete o da che cosa, che ci vedeva poco e non poteva più allenarsi, non poteva più fare niente, sulla sua passione era quella. E si è buttato, dove si è buttato, lì ci è rimasto, capito? E frequentava quando è così non fa neanche roba. scatole, allora qua ti rasetano la macchina, ti capito? Meglio niente. Cioè, te lo ricordi la parte? Io me lo ricordo, io sì già. C'è una in via Libio, io mi diceva la zona dei più delinquenti, già lo so, già lo so. E quello lì che gridava la gente, adesso che c'è un coso, io non sono andato in via Mare. Dovevo portargli il cambio di soldi e roba del genere. E io sempre prima di scendere controllo, no? E ho visto questo qua che stava guardando. Ho messo la assicurata all'interno. Poi c'era la porta chiusa di via Mare. La porta chiusa. Perché stavano facendo le pulizie dentro, allora chiudeva. Beh, fatto sta che come sono andato a uscire si è messa a voci, dammi l'idea, io non ho bisogno, che non so che travaglieni, non so che cosa. E mi sono dovuto mettere con le spalle, ho bussato il negozio, non mi avevano appena, mi sono dovuto mettere con le spalle davanti alla porta, come stava avvicinando, cazzo, ti sono detto se ci è arrivato, cazzo, manco male, ma ne abita giù che tu la parata di me, sono entrato dentro, li ho chiamati i carabinieri, poi non lo so cosa gli hanno fatto. Perché lui da solo, già è cattivo anche da solo, ma sta sempre con quella greffa lì, capito? Te ne pigliano tutto, e sono diventati mezzo ladri, mezzo delinquenti, ad uscire. Ma molti ne hanno immissati, nel senso che oramai sono controllati e quindi non è che possono fare quello che vogliono, già sono controllati oramai, prima erano al Pascolo Prado, e quindi li lasciavano stare così, aveva già hanno poco da giocare, capito? Hanno poco da giocare. Gigi Volker. Gigi deve essere arrivato Sandro e stanno modificando la radio. Ma la pantera è morto, mi Claudio, l'hanno investito. Oh, morto è, cazzo, la morte sua ha fatto, E quando? Ma da poco. Ma da un bel già. E da un bel. L'hanno investito su dove c'è la rotatoria lì. Hanno costruito la bicicletta, non barriera. Ma io me lo ricordo una volta, eravamo con Liliana, stavamo passeggiando in piazza, siamo scesi alla fine dove c'è l'artigianato lì. E c'era un ragazzo tranquillamente parlando al telefono, seduto sopra una moto, cazzo ci fa la bantera, comincia a abitare a Bozzi, senza motivo così. A te mesi faccio la faccia, compreso. Io un attimino li faccio vedere che sono al telefono, lasciami cominciava a dire le cose, alla fine questo qui non ce l'ha fatta più, ha avuto il cavalletto, cazzo, con tutti i cagnotti a faccia. E stava finita, Nira. Aspetta, saluto mia figlia. Stavo salutando a... sto andando a lavoro. Chiave. Praticava. Oggi 23 anni di matrimonio. Boh. 23 anni di matrimonio hai fatto? Sì. Ma non hai fatto le nozze, io sì. Io ne ho 26 con quest'anno, ho fatto l'anno scorso 25 anni. Che ti stavo chiamando, Claudio. Ma me stanno chiamando, chi è che chiama, che app? Ehi, chi è che chiama? Gamba, Claudio. Ti ascolto. Alla grande sei arrivata, non ci c'è il problema, 9 più radio super 5 K, dove sei? Claudio, vigilante e quindi non esci stasera, eh? Devo uscire, già devo uscire. Verso Alghero, ma però tardi, non adesso, verso le 9, 9 e mezza. Ah, gatto, già sta fresco, va. Allora, cosa ci fai se ci vuoi un caso da grippa? No, ma infatti non fa. No, io riguardo la partita, poi sicuramente dopo la partita usciremo. Ma proverò una boccata d'aria, tanto qua non devo fare niente domani. Allora vediamo. Abbi pazienza, ma me l'hanno rimandato le figli qui. Non posso andarci lunedì. Oh, te l'hanno rinviata, quando te l'hanno? Prossimo. Al prossimo mese? No. No, lunedì, ma dal prossimo lunedì. Sabato lunedì. A quanto? 10 giorni? Fisato che non li buttiamo là, perché c'è un mio collega che praticamente me l'ha rovinata, perché si è messo sino al 30 e sino al 30 è la prossima settimana, quindi che mi sostituiva a me, si è andato in figlia e lo sapeva lì che dovevo andare in figlia, perché gliel'ho detto qua, dice da quando ci sei in figlia, gliel'ho detto. Non è che mai detto, guarda che ci sono io, sposta per niente, ho pigliato impegni, allora mi tocca tutto a cuidare. Questo professore così a me non mi piace, no? Chi non ha rispetto non va bene. Io fortunatamente ogni anno facciamo una riunione prima, verso maggio così, a metà maggio facciamo una riunione di tutti quelli del lotto, a chi servono i figli a tal giorno, tal giorno, si programmano, si appendono, nessuno le può più toccare. Nessuno le può più toccare, capito? Io praticamente dovevo andare in ferie dal 4 di giugno sino a... Beh, sarei già rientrato, dal 4 al 20. Sarei dovuto già rientrare, capito? E poi andava mio collega. Invece adesso hanno messo un sostituto al posto mio e allora se ne stanno programmando loro. Però i programmi li facciamo e no, non si toccano, senza cavallare, senza niente, capito? Una volta che sono programmate si lasciano così e basta. Beh, la più giusta è quella lì, mettendosi d'accordo tutti quanti, un anno uno, un anno l'altro, invece che... Da noi ci danno un foglio, un piano ferie e noi ci mettiamo, ci segniamo, poi se l'altro che c'è dopo si segna magari quando vince due ed è preferito da loro, va prima, è normale. No, lì lo sbaglio è loro già, perché noi non ce ne fuori, noi programmiamo tutti i colleghi, te l'ho detto, ci vediamo, ci mettiamo d'accordo, chi ha più necessità va prima e se no gli altri aspettano. Però invece è una necessità praticamente proprio conosciuta da tutti, dai. O la moglie ha le ferie assieme a lui e quindi, ma quelli che no, le mogli non lavorano, non hanno problemi, le programmiamo e si va. Come rientra uno va l'altro, o rientrano due e vanno gli altri due, capito? E così è troppo comodo, tu poni dal 3 al 15 al 16 agosto e chi tu poni dal 3 al 16 agosto, magari è più preferito di te, ma danno a lui, già come ti funziona. Preferito nel senso buono, nel senso che magari preferisce che rimani tu per fare quel tipo di lavoro piuttosto che un altro che magari lo sa fare meno, capito? Cosa sono loro, guardano la loro convenienza, capito? Dice, ma anche se l'anno scorso solo lui, e perché piano fine l'ho fatto anche io dall'anno scorso quando ci hanno presentato? Ma infatti dove ci hanno preferito quella maniera lì, anche da noi è così, se ci sono delle cose programmate che uno magari è più pratico, l'azienda o il responsabile di zona dice no, o a lui mettetelo al secondo turno, fate la cortesia, come già è capitato a me 2 anni fa. Io avevo programmato la prima fascia, invece il responsabile ha voluto che io andassi a settembre, perché a agosto c'erano delle cose che dovevamo ultimare e ce le abbiamo ultimate, capito? Ma non c'è problema, a me mandare fuori agosto. Posso anche saltare, cioè se settembre, posso anche saltarlo agosto. A me le ferie a settembre mi vanno benissimo. Solo che adesso ho saltato il primo turno e quindi adesso vediamo se farò agosto, dicembre o settembre, dicembre, non so. Perché sono infortunio, quindi le ferie sono bloccate. E vabbè. Comunque, hai visto com'è lo stipendio? Ti dà il 70%, ma lo paga l'infortunio, il 30% l'azienda, sino al terzo mese l'infortunio. Dopo il terzo mese praticamente l'azienda non ti dà niente, ti paga tutto lo stipendio dell'infortunio. E non è come ti ho detto io. Non ho fatto il furto. No, a me mi hanno già fatto firmare il foglio, no, non c'è problema. Tutto gappa, infatti ho già chiamato l'azienda, ma ha detto no, non ci preoccupi, devi prendere lo stipendio per intero, perché noi ai calcoli facciamo le accreditiamo al 30% del netto e l'altro glielo accredita l'INAIL. Infatti se può fare lì un ragioniere, perché mi ha detto sicuramente gli arriva prima quello dell'INA che quello nostro, e gli ha detto vedete voi, oggi abbiamo 20, cos'è? Lunedì è 25, non so, comunque l'ho detto mica, poi c'è il 27, quindi datevi una mossa. E lì non lo manda subito, è claro, te lo devo dire chiaramente, devi aspettare un po'. Te li manda poi a rotazione, però ci mette un po' ad arrivarti, come hanno fatto così. Però adesso il 30 giugno devono pagare dal 30 maggio al 30 giugno, è un mese, quindi non possono sgarrare. È un mese, capito? E se no cosa cazzo di stipendio piglio io? Non piglio nulla. Anzi, mi hanno detto che sono puntuali. Mi hanno fatto firmare il foglio per l'accredito, perché me lo accreditano direttamente in banca. Mi hanno detto che già sono puntuali. Loro alla scadenza del mese, io adesso sono andato in infortunio il 30 maggio e quindi al 31 giugno, al 30 giugno, quanto ne hanno? 30-31 scade il mese, perciò i primi di luglio mi dovrebbero accreditare lo stipendio. Vai a girare, Claudio. Cosa? Girare. Aia. Bombolino. A rotazione ogni mese, però la prima volta sui 15 giorni ci hanno messo. E oltretutto ti ho spiegato com'era, no? Ti ho spiegato com'era la storia. Lina il mandava la roba, ma non ricevevo il resto, ecco, capito. No, e lì hanno fatto una fine loro già. Firmare tutti i fogli, ma già da 10 giorni fa, 15 giorni fa, capito, proprio perciò non ci dovrebbero essere problemi, dai. E se no si arriva la prima settimana, se no la prima settimana sarà la seconda, cosa vuoi ti dica? Comunque io ci vorrò sollecitare, non è che metto quel chivie che sta per la forza. Non è che devo prendere, vabbè, adesso questo tripide è già coperto, però l'altro volevo dare linee, hai capito? Quindi volevo andare puntuale, non agire in maniaca ai buoni. Non sai cosa è successo, questo qua è andato a protestare, praticamente non gli stavano arrivando i soldi e gli stavano accreditando a un'altra persona. Stavano accreditando a un'altra persona, è stato modificato roba al computer, qualche hacker, qualche cosa li faceva praticamente arrivare a lui. Cazzo, e questo si riprendeva e non diceva niente, quel miserabile. Faldino era di quelli truffaldini, cosa gli zia. Allora, non sai cosa mi sono trovato, l'altro giorno nel cassetto che stavamo parlando di lui. La magliettina mi aveva regalato Salvo Rettifica. Ah, che a me ce l'ho. Ehi, quella cos'è, nera, o la scritta rossa, cos'è? O rossa, buon nome, ricordo, ce l'ho anche io. Scritta arancione. Quella la scritta arancione, ce l'ho anche io, ce l'ho. Ma la vina ha fatto questo, per carità. Te l'ho già pagato, l'ho detto io. E se no io non l'ho pagata, 150. Pazienza, che si vuole fare? Una iattolina è diventata, sempre VGV. Già, quando c'era i calcagni e... quando c'era i calcagni e recuperi, no, non devi fare altro che allontanarti. Adesso lui è più lontano possibile, credo che lì non lo possano cercare, non lo so come funziona. Non ci ho capito niente, comunque non è messo bene, dai. Faccio bene. Eppure era una brava persona, dai. Non era. A parte il fatto che mi aveva mandato i mormoni a casa, che gli avevo detto di non farlo e l'ha fatto lo stesso, poi ci siamo andati via malamente, tre volte sono venuti, ci mi manda Salvatore. E ho telefonato Salvatore, se vogliamo essere amici, io ho la mia religione, tu la tua. Rispetto la tua, tu devi rispettare le mie idee. Non mi mandare più alle tre la gente a casa perché mi disturba che sto riposando. Che me l'avevo detto. Infatti gli avevo detto non mandarmi a nessuno perché a me non mi interessa lo tipo di religione, io sto bene con la mia, perciò non me ne fottiero te. E mi sa che proprio quella religione lì l'ho messa qua a terra, capito? Sai che mio nipote va in quella che lui era praticamente presidente di me, era proprio come se fosse un parroco. E mio nipote va lì a fare lezioni di inglese, però ogni tanto cercano di inculcargli questa storia, mi ha portato la Bibbia a casa, ho detto ascolta, non me ne regali che si cose, quella non è la Bibbia è quella della mia religione, non io voglio manco venire. Io lo so, sì, ma infatti te l'ho detto, non ho mai capito cosa ti ho detto, che lì lui ci ha messo il piede dentro la fossa, non sai se lui che hai vestito in quella specie di chiesa, non hai idea, ha fatto tutto nuovo, l'ha fatto letto a spese sue, mi ha buttato un bel di soldi, un bel, capito? Se domani tu gliela sta facendo a fianco, fanno per pone da un camillo. Mi liberai se c'è qualche bordello, però chiudiamo il discorso. Comunque è andato male e basta, bravissima persona senza ombra di dubbio, ma ha fatto un investimento sbagliato. Doveva rimanere davvero e basta, capito? C'è stato tutto questo ampliamento, si è passato e ci sono i sigilli, no? Eviti i sigilli. Non ci sono più passato, mi fa anche male a vederlo perché dico la verità. con me è stato sempre molto gentile, molto disponibile. La volta che mi si è rotta la marmitta Leo Vinci nella soldatura, mi metto, non ti preoccupare, io fammela smontare dal meccanico, me la porti qua e te la faccio fare come dalla fabbrica. Ha preso e mi ha fatto solo la saldatura, la giuntura più, un po' più larga, ma non si veniva nulla, è fatta bene, ma l'ha fatta con un ragazzo che era bravissimo saldando. L'ha fatto il cordone tutto perfetto, perfetto, perfetto, senza che si vedesse niente, se l'ha fatta a macchina. Ma è misurata sino a quando l'ho versata, quella lì era della moto di Gianni Luglio, il 4 ottobre. Break, break, break, break. Avanti, gappa. Oui. Ciao Gianni, ciao Claudio, buonasera a tutti quanti gli altri. Oh, di cose tristi state parlando. Triste, perché triste? Non state parlando dei morti? Non è così. Morti no. Stiamo parlando dei vivi che hanno sbagliato gli investimenti. Ciao Salvatore, buonasera, ben ascoltato. I vivi che hanno fatto degli investimenti sbagliati, capito? E poi si sono trovati a culo a terra. Sì, già è tutto chiuso e credo abbiano già deliberato in mano a un'agenzia immobiliare, c'è scritto vendesi, ma comunque sono sempre sigilli, dai. Peccato veramente. Quando si sbaglia con gli investimenti paghi e non c'è problema, avanti Gianni. Ho detto salvato embriaco sei. No, mi sembrava i discorsi prediletti da mia suocera. Morti, feriti o giù di lì. Ma io la palla finita in questo momento di sistema rifinamento dell'impianto stereo. Vedo che sono le 7, ne avete voglia di uscire, ci prendiamo qualche cosa prima della partita e poi ognuno a casa sua. Mamma e sei c'è. A tutti. E sono le 7:10. E secondo te cosa vogliamo fare? Ma lo sai come sono io? I mutande. No, ma per quello di già come sei? No, ma... Che bellini. Una bella accoppiata. Ma il perizoma l'hai mutato al contrario? No. C'ho praticamente divide i fratellini. Quindi mutato al contrario. Ci sono i gemellini che sono divisi. Che sono bellini nomi già. Con Ernesto e Faristo a destra e a sinistra. Salvato, io ti ringrazio per l'idea, ma sono un bollore, sono un accumulatore di caldo, non lo so, forse ho preso troppo sole al mare e mi sono adagiato 5 minuti a riposarmi. Poi devo partire, devo andare al Ghero, quindi è un po' impossibile, ma devo andare più tardi con la verità. Una toccata e fuga si può fare, non lo so, Claudio, cosa dici? L'importante è cosa dobbiamo toccare e dove dobbiamo scappare. Io culo non ne tocco a nessuno. E fini menina, io ci prendiamo una birra bella fredda e dai, un'oretta si può stare, tanto la partita inizia a meno un quarto. Ma dove? Dove? Chi gira la notte siete voi, mica io c'ho famiglia. Girangio con Fris. Vedrai che qualche notte passiamo a prenderti, guarda che noi quando siamo con Gianni e gli altri, usciamo dopo cena, 9:30, e siamo lì seduti in Piazza dei Segni a prenderci il fresco, e non è quel bar che andiamo la domenica, capito? La domenica mattina, andiamo lì, ci sediamo, due chiacchiere, una Coca-Cola, una menta, e siamo lì sino a mezzanotte così, e poi ci rientriamo a casa, non è che ci andiamo per i night, sabato, date una regolata. Allora dai, praticamente siete convinti, ditemi dove ci troviamo, e sto uscendo. Allora andiamo mi si fa di tutto. No, io sono già lavato e tutto. Ci metto poco, ma bisogna convincere Marco se vuol venire. Non viene con Marcolino perché ce l'ho io e quindi viene con lui per forza. Aspetta un secondo, che glielo chiedo. Bueno, siamo qua. Claudio, ma tutta la sera hai continuato, sì? No. Adesso lo spengo, Ecco qua, l'abbiamo tolto, bene va. Finalmente. Le orecchie ti ringraziano. Aspetta che passo col quivo, dai, che così. Mi rilascio un pochino che qua c'è il microfono normale. No, perché eravamo sul 45 con Gigi. Poi c'erano soltanto il 45, poi il 44, c'era un po' di propagazione. Alla fine gli ho detto io passo al canale 14. E ho tenuto l'ecco, adesso passo con l'altro. Switcha. Poi così nel frattempo avevo la possibilità a Gianni di fare summit casalingo e io accordo pure nel frattempo. Oh, ok. Eccomi qua sotto, dentro qualcuno? No. Comunque la modulazione cambia, Cosa cambia la cosa qua? Sì. L'altro era un pochettino, quell'altro. E poi quello che è il combattimento, se la tondi, quello io lui solo conosco neanche una volta, infatti, sinceramente non me ne ho mai accorto, eravamo a 14, sono stato io a 10, 20, 14, ma non so, neanche accorto. Poi questo è più rilassante, più professionale, quello era proprio la... da combattimento, da fare un morbello. Sì, ho già fatto una scoperta a distanza di 2 anni che avevo comprato un'antenna interna da usare dentro casa e, però a seconda antenna TV, però a seconda del tempo accidenti, alcuni canali proprio non li vedevo, dicevo porca miseria, mi avevano detto che aveva un buon guadagno e vabbè, prima o poi metterò l'antenna all'esterno. Fatto sta oggi, siccome stavo sistemando l'impianto stereo a mia figlia, stavo cercando il telecomando, l'impianto stereo, e mi capita tra le mani la scatola dell'antenna. No, amici, questa ormai non mi serve più, la butto. Quindi cosa ho fatto? Ho preso l'ho aperta, per essere sicuro che non ci fosse dentro niente, tra l'alimentatore dell'antenna, più il cavettino. Cacchio, ho detto l'alimentatore, non è possibile. Ho attaccato l'alimentatore da 5 volt da continua e si vedono tutti quanti i canali regolarmente. C'è 2 anni che... Vabbè, in quelle long periodiche, che in quelle finali invece? No, interna è un pannellino di un palmo per un palmo e mezzo. E c'è picchio, è così pimpante come antenna. Caspita, ma veramente micidiale, ce l'ho sopra il mobile di qua del salotto. E... ne avevo cercato una omnidirezionale, questa invece ha il piatto proprio vivo. Non ha perso un canale, tutti quanti, qualità 10 e potenza 10, pensa un pochettino, bisognava solo alimentarla, che imbecille. Adesso, non so, cosa ha detto Gianni quindi già? Oh, non ci vuole venire, insomma. Adesso la 7:15, sarà la prossima volta, io frutti di... ma dobbiamo vestirci, poi non so se che tra le segni è chiuso la domenica sera. Uno e l'altro credo che si può chiamare la domenica mattina, tutte e due, quindi insomma, almeno la domenica sera credo che siano chiusi, perciò tocca scendere dalla parte tua, prendere macchine, contro macchine, ma sabato ti ringrazio e sabato la prossima volta ci rimettiamo meglio, dai, che si sta così bene, anche se non mi fare vestire, che anch'io sono con le mutandine trasparenti. Ecco, ok, andate lo zio, tanto Asate lo zero. Poi mi ha telefonato quel Fabio al quale gli avevo venduto la radio. Non aveva voglia di leggere il manuale, allora mi stava chiedendo dei settaggi, ma te li immagini, non posso venire sino giù a Cagliari a accendertela pure la radio, però un minimo di sforzo nel leggerlo, il manualetto lo devi fare. Comunque, dopo qualche battuta così ha settato ed è contento. È una bella radio, il 440 alla fine penso che rimarrà negli annali come una radio che in ogni caso ha avuto un ottimo successo. L'hai venduta? K già, sì, 420 compreso la spedizione. E la spedizione mi è venuta a costare 30 euro per l'occasione, con Panai l'ho mandato giù a Cagliari. Sì, però tutto sommato era messa bene, poi aveva anche i chip, quelli che avevo comprato con il cavetto per la connessione CAT, e quindi insomma era anche fruibile con un computer, per cui un valore aggiunto ce l'aveva, non esagerato, ma ce l'aveva, certo. E quindi poi lui è contento, la radio l'avete sentita anche voi, andava bene, per cui insomma contenti tutti quanti. Appagato. Sentite, va bene, ancora chiudere. Gianni! Di qualcosa, conforta il buon Claudio. Scusami, ma... Alla giostra sembriamo con Gianni. Sì, lo conosci? Volevo far provare se c'era qualcuno su qui. Che pugno era importante, tu invece di tu con questo microfono, io cambio la batteria, lo più rotta. Oh, iaia, ciao a te. Oh, eppure così, vedi. Eppure così. Non è tutto come posso dire, ma... che sono... uno di quelli, no, mai, mai, mai. Non mai... mai fatto di queste cose. No, poi Fabrizio, la verità, sì. Si è sempre fatto in quattro. Qualsiasi cosa che ho chiesto, ma ha sempre fatto. Adesso mi sta cercando un base, mi sembra che l'abbia trovato per me. Di quelli americani, 40 canali più 40 canali, base, un baracchino. Allora dice che dovrebbe fare la prossima settimana. Quindi vedi bene che... con persone così non hai mai da perdere niente. E cosa te ne fai di un altro? Ma così, giusto sempre per so di avere una radio diversa. Ma io l'americana praticamente cosa c'ho? C'ho il back e il Sears, lo stesso che americano, poi forse non lo so se è americano. Come base, poi il console primo e le Zodiac in base, vabbè quelli no. Questo è proprio una roba americana in base, tutto in legno, residuo in magazzino addirittura, perché Fabrizio va proprio a cercare le cose perfette. Qui dovrebbe essere nuovo nuovo, dentro la scatola mai usato, ho capito. È un residuo in magazzino di un'azienda, non so se in Inghilterra, oppure una roba americana. Adesso vediamo quando arriva, ma è una versione grande come il Galaxy, una cosa del genere. Accidenti. Era una bella grossa. Gianni, cambiata la batteria. Ah, vale il tempo e devo fare poco manovro lì. Vale il tempo, sabato. Cosa è cosa? America. Vedi, ti sto attenuando a 18 decibel, 18 decibel vado via anche tutti i flussi di trasporti RM per chi ascolta, e con il monitor adesso sto sentendo che sto uscendo troppo amplificato, che brutta, così dovrebbe andare meglio, dai, meno insolente mi sembra così. Non stai che il monitor ti fotte, perché noi fossi diretto, capito, con le cuffie, e lontanato così col corrispondente sei bassissimo del radio, anche a me mi fregava, capito? Alla fine allora, anziché ascoltare col monitor, mettevo le cuffie in un'altra radio senza antenna e mi dava più affidabilità. Anche a me mi frega. Una volta metto il monitor, faccio nomi, metto le cuffie e fa la voce che sembra alta, invece bassa. Ma ne hai radio sabato, lasciala com'era, andavi benissimo. Sì, ce l'ho, il evitare di attaccare l'antenna, quindi 1, 2, 3, 4, 5, a 5 di Mickey Gain. Cavolo, però sto parlando quasi quasi sottovoce e mi sembra insolente. Ma sento la loro voce, se non c'era qualcuno da dietro ti stava toccando il culo, boh. No, c'è l'impianto stereo che ho acceso per fermo un paio d'anni, quindi sto già dato corrente e la tengo accesa adesso un paio d'ore. No, niente di più. Così va bene? 4 e 1, 2, 3, 3 e mezzo. Sì, guarda, va benissimo, sembri Giovannino Piuri quando facevo le riunioni di cantiere, siccome ci faccio quelle cazzate, allora abbassava la voce per non farsi sentire. Ah, sollevi la voce! Attenzione sul 14. Ha registrato l'attenzione sul 14. Ma mi sembra troppo squillante, poi ho le tonalità alte, oclà. Mi sembra che vada un po' troppo oltre, che dia fastidio, che sia fastidiosa. Comunque, vediamo un pochettino cosa dice il nostro nuovo ingresso. Avanti il break, buonasera. Buonasera a tutti quanti, il componente del, 4, del canale 14. E Leoncino che vi super saluta, con la buonasera. Ciao Leoncino. Ciao anche Claudio. E c'è anche Gianni. Come dicevo sì, io se ciao, buonasera, ben ascoltato. Gianni, Ocla, che è sparito l'effetto giostra. Scusate, ehi, però sei stato un giorno adesso, dimmi Gigi. Adesso Claudio, che ho fatto quel lavoro, una cortesia me la puoi fare? Puoi passare un attimino sul 45 e vediamo se va sul 45 quell'apparato là. Me la puoi fare questa cortesia, Claudio? Io sai che non sono, scusate, non controllo la... Gigino, riprendi con Gigino e con Gianni Salvatore. Si è aggiunto Giuseppe alla ruota. Avanti. Ciao Giuseppe, ben sentito, vai, vai. Com'è la radio adesso? Salvatore. Mi sembra una ZQ compressa. Molto? E al quanto? Casomai se ti ascolta Claudio ti dice che va bene perché a lui piace la tonalità bella massiccia, però a me sembra leggermente compressa. Guarda, ecco, guarda a vedere come va adesso. Hai chiuso un pochettino? K. Prova un altro pelo. Così, sì. Hola. Così mi sembra già meglio. L'ecco, stai lasciando l'ecco, giusto? E l'altra non ho trovato la batteria, dai, non posso usarla, non c'ho batteria. Ah, ok. Avanti Leoncino, cosa ci racconti? Sono proprio sotto casa e stavo provando questa pezzolina, diciamo, questa segretaria, come stavo uscendo, capito? Ho capito. Non so che dirti, ma ce l'hai attaccata adesso? Ah. Mi sembra un po' gracchiante. Già, cosa ti sembra la giunta di Leoncino? Prova a fare un passaggio, Leoncino. Via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. È un po' compressa, ma non molto, appena. Ma sicuramente perché c'è una vicinanza. E a me come mi senti in radio? A te ti sento abbastanza bene, sai. Eccomi qua di nuovo. Claudio, com'è la radio che ho regolato il magno? Ah, c'è il magno, è diverso dall'altra. Tu rimane più leggermente più compressa rispetto all'altra già. Aspetta. Vado a vedere se ci vai il manetto di potenza. Adesso va meglio, ora è troppo bassa. Manda, perché non c'ho batteria? Sto regolando il bagno, perché non ho la batteria per, come si dice, per mettere il microfono. Stavo guardando, c'era 5 e 6, l'ho misurata. Vabbè, passerò intanto, devi andare al ghiero. Ho tutto aperto, passeggiando, e devi al corso, c'è la macchina aperta, prego un pareggio. Sarà su Guccia l'inchipi che posto di turisti, allora prendo domani negozio, intanto prendo sempre dura, ci sono la prendo se battere mi durano dei picchi, questa qua ce la voglio da un bel. Sì, c'è quella che avevi cambiato quando c'ero io in radio, che era un bel sì. Vabbè, no, quello lì ne consuma un bel, mentre il più 2, il più 3 è mio, no, il salotto lo stesso ne consuma un po' di più, ma il tanner no, il tanner no. Ma Giuseppe, dove sei? Sotto casa sono, sopra. Ma tu di memoria? Antonello. Qual è quello che ti ha dato il conto? Ega. E funzionava o aveva problemi? No, no, funzionava e sta... sono attaccato già, sono attaccato, vedi come stavo dicendo. E qual è mosso se? E cappa. È mosso, ti mangia? Sì, chi? C'è trovato da mi pare. Guarda, anch'io sono con la stessa potenza, quanto ti sta arrivando, Claudio? Esce più alto, lui in macchina, esce più alto, 10:35. Paga, paga. È più o meno la stessa potenza che c'ha lui, lui. Ma lui, cazzo, per essere in macchina, minchia, è una cosa allucinante con la zona, boh. Che ci la macchina, 9:25, con picchi a 27:28, con becca, stiamo ma boh. No, va bene, Giuseppe, va bene, te l'ho detto. Va alla grande, ottimo per la truppa. Ciao, vado. Yes, teacher. Infatti non è il signore del Buon Gianni, alle 40 è arrivato. Ai 40, 40 modulato, sì, e 35, 40, yes, e vabbè Giuseppe è un po' più basso, ma è tutto comprensibile, tutto comprensibile. Ma c'è differenza, ho sabato, e voi siete a casa, Gianni a casa, Claudio a casa, e io sono qua in macchina, io sto provando, se attacco quello di casa, ci arrivo 9:30, hai capito? Sì, dicevo più basso perché sei in strada, Giuseppe. Ebbene, è giusto per vedere se... c'è questo poi, questa cosa qua, non riscalda niente, nulla, hai capito, freddo, perché l'altro cazzo come lo mettevi era, dopo 10 minuti diventava bollente. Cappa, sì, esattamente 9:20, proprio fisso, 9:40 è Gianni, ma il tutto è, ripeto, è ampiamente giustificato dalla... dal dove stai trasmettendo in questo momento? Io sono qua sotto casa mia, sotto il mio palazzo di casa mia, sono posteggiato qua, perché se vado su a Coso, a San Francesco, arrivo molto di più forte. Fatti un giro, beh, visto che la notte è ancora da venire, così ci togliamo anche questo, ti togli il gusto di questa prova. Dammi 5 minuti e ti faccio vedere. Benissimo, così sentiamo. Claudio, quindi per quanto ne hai, Ocla, di infortunio? Ti fai tutto luglio? Beh, adesso c'ho la copertura per la... praticamente sino al 4 luglio, il 4 luglio devo andare la visita ortopedica nazionale, l'ho già fatta. E lì mi hanno dato 30 giorni di fisioterapia. Però la fisioterapia praticamente parte da dopo il 4 luglio, perché sino al 4 luglio sono ancora in infortunio in AIL. Adesso comunque il 4 luglio vado a loro e loro mi dicono dove fare la fisioterapia, capito? Domani ci devo andare e vediamo un pochino. A te cosa sembra fisicamente? Che la cosa stia mettendosi a posto o c'hai qualche dubbio? Roberto, sembra che, già mi sento lo stesso che sto avvitando un piede, sembra che la spalla non mi stia creando molti problemi, sembra. Sento delle fitte così ogni tanto. Il problema è che hanno riscontrato una brutta tendinite, praticamente il braccio come è rimasto appeso, staccato, 4 ore al pronto soccorso si è lesionato un tendine e quindi è molto molto infiammato. Perciò da lì è partito tutto, perché il braccio mi fa un bel male, non lo piego molto, la mano non l'apro, tutta bene bene. E quindi adesso devono verificare quello, oltre alla spalla. Accidenti, una brutta cosa, che bisogna riprendere la piena funzionalità, adesso inizia a passare anche un po' di tempo, oramai quant'è? Quasi più di un mese? Per il 30 maggio sono qui. Dal 30 maggio è 24 giorni, non c'è un mese. Però adesso volevo portare questi fogli, sicuramente devo rifare una, mi fanno una lastra loro l'INAM, l'INAIL, vedono un pochino. Infatti devo andare lì e vedere un po', capite? Mi hanno dato l'appuntamento per il 4 di luglio alle 8.45, c'è un foglio lì, me devo presentare lì. Col foglio dell'ospedale, quindi con l'assistente medico che mi ha dato l'ottopedico in ospedale, sono andato il 22, perché il 19 mi hanno voluto vedere loro, non mi hanno dato idoneità, non ho aspettato che mi vedesse il medico l'ottopedico dell'ospedale, il 22 mi ha visto l'ottopedico dell'ospedale, quindi abbiamo fatto le prove, quando mi hanno tolto la fasciatura e con i movimenti, le articolazioni, tutti al 50-70%. Perciò ho bisogno di riabilitare tutto, capito? Claudio. Dimmi già. Adesso ho provato a chiudere tutta la potenza. Quando ti sta arrivando? Marco, come sto arrivando in radio? Ma il segnale è calato a 9.25, quasi 9.30, che tu più o meno sei come Giuseppe. La radio è bellissima adesso, non lo va bene anche tu lo fai già. Pulito! La radio è pulita adesso. Salvatore! Cappa! Sei Giuseppe. Ti sento bene, eh? 25. 9.25. Hai preso un più 5 rispetto a prima. Cappa! È un passaggio un po' più lungo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sì, fermo a 9.25, un più 5 è preso, mentre Gianni è sceso di un 5, è 9.35 adesso, figurati, un'inezia o già sei sceso. Cappa, guarda adesso come va la radio. Beh, era più pulita prima, se devo essere onesto. Ha guadagnato anche qualcosa il segnale, ma la radio mi era sembrata più pulita prima, poi. Sto regolando, guarda adesso come va. Fai un passaggio per un po' più lungo, così ci dai più possibilità di sentire. Claudio, ascolta anche tu a vedere come sta andando, vai. Sto regolando a vedere come lo devo lasciare. Vai. E così sto dicendo, va bene. Ciao, progetto Boccardi, per me va benissimo così, cosa vuoi di più? È leggermente con tonalità più acute rispetto all'altro microfono, ma eccezionale come modulazione. Tieni conto che sono distante, quindi su Salvatore magari c'è qualche differenza. Giuseppe, sei passato 9 più 30, la matta delle varie non ti avvicinare, eh? E la radio va bene, è classico. Va grande, è già. Questo che era la regolazione giusta, la lasciamo così, buonanotte. Si va alla montagna, il gusto si guadagna. Ciao, caro Claudio. La matta con la montagna, 9 più 30, sì. Ho dietro casa tua, me. Ma felice. E domani, sono qua a San Francesco, a casa tua. Sono qua dove c'è, abbiamo visto una volta con Gianni il proprio artificio, dai. Capito. La radio come la senti, Giuseppe, la mia? Guarda a vedere con questo apparecchio. Diciamo che la radio confronto agli altri che ti ho sentito già è molto più bassa qua, però sta uscendo bene. Basta perché mi devo regolare mettendo il microfono vicino alla bocca, sono abituato all'altro. Guarda adesso come va. Adesso sta alzando parecchio, sta arrivando 9.40 qua, sì, dai. No, ma mi interessava la pulizia della radio, se era buona. La radio è buonissima già, sta ancora così. Il segnale è lo stesso, la radio è buona, ottima. Già va bene, allora. Va bene già, lascia stare tutto così che... Vai ottimamente bene. Io sono con licenziare ai 20, se non ricordo male. Io sto uscendo col minimo sindacale, ecco qua, questo è il minimo sindacale. Noi siamo molto più modesti, Massa e Brocco so. Ah, sì, davanti c'è il radio, vabbè, ora sta guardando. Claudio. Buongiorno. Guarda, adesso io te lo spengo. Adesso spento, com'è adesso il segnale? Tutto per un momento ancora, porca miseria. Sì, 9:20, 9:30 a fare. Grazie. Ma guardate, 9:30. Va bene, adesso sono 9:35. Senti un attimo, Giuseppe. Allora, spengo, sabato. Sì, 9:15. Però la radio guadagna tantissimo, scompare questo effetto gracchiante sul fondo e si sente molto meglio. Vabbè che c'ho il microfono abbassato, capito? L'ho messo a 8, capito? Ma per dirti che alla fin fine si sente molto bene così, Scappa. Conservatore con un motore 140 lo facciamo andare un po' che era tanto non lo così mi c'è differenza di radio, questo è il 440, guarda. Senti, Gianni. Ma qua c'è fondo scala, Giuse, devo dire la verità. Qua è benissimo. Però la zona è. Ci vedono le antenne, dai. Scappa, vabbè. Oh, ce l'ho spento, già. Si accendo arrivo. Forte, però teniamolo un po' fretta adesso, dai. Ma va benissimo così, se non si riesce a vedere niente. Però se si vede lontananza, ma se no va benissimo. Oh. Aspetta Giuseppe che voglio vedere sul 140 se c'è differenza di segnale. Questo è il 140. Prova a vedere, attaccato e staccato. No, così è staccato. Adesso porto la tappa. E così è attaccato. È uguale, 9:20, 9:30 sono uguali come temperatura di Smith, dai. E beh, ho salvato, non ti differenza dal 4:40 al 140. Questa ha una modulazione più con medio bassi, devo dire, è più ampia, sembra proprio lo spettro. Sembra che ti raccolga le frequenze più basse, riesce a esporle, sembra più piena, proprio più piena. Ecco, città di Sassari. Registrato il break, c'è anche la città di Sassari che chiama, dovrebbe essere Sandro. Registrati due break, un secondo che faccio passare, questo è l'MC80 però ho salvato l'altro dall'MC60, quindi sicuramente la differenza, la timbrica che senti è quella, questo è l'MC80, l'altro è l'MC60. Allora c'è stato il break, Sandro, ho registrato anche a te, ti faccio passare, avanti Massimiliano, vai per Sandro. Mi arrivi 9:15 qua a zona San Francesco, viale San Francesco, Cappuccini, per non confondersi, perché c'è Leoncino che è a San Francesco in questo momento e sta modulando da là. La radio è. Che microfono stai usando? Non so se sono io, però ti sto sentendo leggermente saturo, possibile, non so se anche gli altri stanno apprezzando questa modulazione. Cosa hai abbassato? Un pelino? Certo, appena. Perché mi sembra più pulito. Va bene, non ci sono problemi. 33, ci stavo regolando le stazionali dall'altro canale, là. È positivo, però volevo chiedere se questo aspetto qua non ti piace. Ah, va bene, beh. Prova, va. Sono passato di lungo. Guarda, va bene, va bene, ho aperto un pochino i toni, magari lo sto per te, se va bene così, vedo un po'. Sì, va bene, non si vede. Ma che microfono stai usando? Il 5 modificato. E non c'è tu 40 questo? No, perché c'è il mio. Questo è il microfono. Non l'avevo mai inteso. Ma che Antonio Alessio, 80, non c'era quel bip. Antonio, che sei la consueto. Vabbè, Antonio fa sempre gli esperimenti. Giuse, vai... Aspettate un secondo, vediamo Sandro. Sandro, dove sei? Dopo posso guardare la partita con calma, per cui rilancio a Bombolo e saluto tutti quanti: Massimiliano, Gianni, Claudio, Giuseppe, Leoncino, Sandro e quant'altri mi sto dimenticando. Poi doveva anche ritornare, mi sembra, Gigi Vulcano, ma non l'abbiamo più sentito. Cari signori, buon proseguimento, grazie della chiacchierata, salutoni a chi ci ascoltano e buon proseguimento di serata. Io faccio QRT e faccio un po' di faccende casalinghe adesso. Ciao, bye bye, riprendi Bombolo. Riprendo io, ciao Salvatore, no, stavo facendo due chiacchiere con la sorella di Claudio, te la mando avanti, ma non ti mettere a ridere però, perché te la mando avanti. Baba. Mamma mia, cara, ma cosa ci fai lì? Ma perché sei lì? Sempre andando a cercare... Ma te le immagini, Salvatore, sta sempre in giro andando a cercare uomini a destra e a sinistra. Guarda che Gigi Vulcano è sposato, vai via da lì, maledetta cane morta che... Capito, Salvatore? Ci ho capito, non so se iniziare a preoccuparmi, però... Sono bravo, me che quello lì siamo scemati. Dimmi tu, guarda tu dove è andata a finire, guarda tu, e una volta solo gli ho fatto il vetro che abita, si è preso il tram, guarda, se ne è sceso a casa di Luigi, torna subito qua, maledetta, che vieni qua, ti leggo la sedia, Luigi, ma dove non te, Non si può, non si può, capito, ma se volete ve la rimando avanti, vai. Stessa sorella di questa, mi guarda, questa solo che è talmente abituata a baciare, sta sempre mandando baci, che va? siete messi bene tutti quanti. Dai, vi saluto, che faccio un pochettino, che sistemo. Dai, alle prossime a tutti quanti. Ciao, ciao, riprendi Gigi e poi fai girare. Siete andate, li ascoltiamo dei migliori, dai. Niente, dai, ho fatto quel lavoretto a, a Sandro, una tutto, cioè tutto quanto era una micchiata proprio da fare, dai. Niente, abbiamo fatto il tutto ed è a posto, è contento e è a posto così. Vai, chi c'è tutta la porta? C'è Gianni, non è che forse Bombolo, è che forse era, era questo pupazzo che stava ridando. Vai Gianni, dai. Grazie per il microfono. Che dire, ma si vedeva, fammi sentire questo 140, col BIP nel BIP 5, che non è andato a bere uno. Non l'avevo sentito 140 con l'MB-5? Sì, l'ho sentito, col BIP nell'MB-5, tu hai detto il BIP nel microfono, si è detto che c'è l'MB-5 e non ne ha di BIP. Ma perché non si può mettere, tu dici? E si possono fare tante cose, ma si vediamo, ma ti è andata una vecchia. Ho una radiolina così, dai, che ho... l'ho sentita col cable più 3. Solitamente ce l'ho, questa volta mi ha fregato. Ti ascolto bene, non c'è problema, è radio normale. colazione si capisce bene la cosa, va bene, dai. Mamma mia, cosa hai detto? Sto promuovendo la passione, Massimiliano. Massimiliano. Ci sentiamo dopo per la prima partita e a mangiare. Ciao!